confusione sui numeri con il conteggio di ieri di casi rimasti in arretrato che spinge il dato dei contagi, soprattutto in Lombardia. Ma il punto ormai non è neanche più quello, quanto il resto della confusione. Sulle mascherine, sui tamponi e sui reagenti, sulle regole per la riapertura di una serie di attività, con le ipotesi circolate fino ad ora che spingono ristoratori e balneari a dire che così non si riparte. Mentre i sindaci, da destra a sinistra, protestano per la mancanza di fondi e l'abbandono, il governo sembra aver raggiunto un accordo questa notte sulla questione migranti, con la regolarizzazione in arrivo anche per colf e badanti, oltre che per stagionali dell'agricoltura. Fatto che dovrebbe portare finalmente all'approvazione del decreto rilancio che era previsto in aprile, il cui via libera è stato rinviato più volte. Sarà il giorno buono? Ah, saperlo. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Eccoci, care ascoltatrici, cari ascoltatori, eccoci di nuovo alle 6:32 minuti e 44 secondi di questo mercoledì 13 maggio con una nuova puntata di 24 Mattino. E con la nostra task force di stamattina, Peter Pescapa in regia, Anita Panizza e Giorgio De Luca in assistenza e redazione, insieme a tutti gli altri, Gloria Guerrero e Alessandro Marco Tulli, Margherita Ine e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. E voi, la task force fondamentale. Mi potete raggiungere, lo sapete, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, fatemele sentire. Allora, che giornata è, ma fatemi iniziare ancora oggi dalla vicenda delle mascherine. Ma quanto dovremo tirarla avanti? Ve lo dico io, parecchio, perché una delle attività fondamentali di questo paese non è ancora riaperta, che è la scuola, e quindi a settembre si ricomincia così, con un problema di approvvigionamento enorme, se le cose restano come sono. Breve ricostruzione della vicenda: il commissario Arcuri fissa un prezzo a 50 centesimi, le aziende, i grandi distributori dicono: ragazzi, con 50 centesimi di prezzo non ci stiamo dentro. Il commissario Arcuri dice: ho trovato delle aziende che me le producono ad un prezzo più basso. Ma cosa succede nel frattempo? Che Spagna e Francia fissano il prezzo a circa un euro. E quindi chi, i maggiori produttori che sono i cinesi, cosa fanno? Indovinate un po', all'Italia non le vendono. Arcuri, via! Il prezzo delle mascherine chirurgiche, che è stato fissato a 50 centesimi più l'IVA, e cioè fin quando ci sarà l'IVA, a 0,61 centesimi, è e resterà quello. Purtroppo per gli speculatori ed altre categorie ad essi simili ciò è e ciò sarà. Se ne dovranno fare una ragione. Si sono fatti talmente tanto una ragione che non ce le vendono ancora Arcuri. Dall'inizio dell'emergenza ne abbiamo distribuiti 208,8 milioni. Sono una quantità sufficiente, le regioni hanno 55 milioni nei loro magazzini. Poi sarebbe carino sapere se ne hanno 55 milioni nei loro magazzini e qua sta le regioni. Dove sono? Eh? effettivamente abbiamo fatto un pasticcio, ammette il viceministro Sileri. Sentiamolo, Sileri, va. Il problema delle mascherine è stato un pasticcio. Vi erano delle mascherine stoccate che si pensava potessero essere utilizzate, invece erano delle mascherine che non erano certificate. Il commissario Arcuri sta risolvendo prontamente e ha dialogato sia con i farmacisti sia con i distributori, e il problema è, diciamo, in via di risoluzione, nel senso che immagino da quanto ho appreso che entro poco tempo si inizierà una distribuzione di queste mascherine a 50 centesimi che saranno più reperibili sul mercato rispetto ad oggi. E altra questione è quella dei reagenti. Cosa sono i reagenti? Sono quei prodotti che servono a capire, insieme al tampone, se quel tampone è di un positivo o di un negativo, insomma, se su quel tampone c'è un campione di saliva di una persona affetta da Covid-19. Allora, anche qua è quasi, insomma, perché poi sembra che uno ce l'ha o col governo o con Arcuri, però sarà un mese che lo diciamo che c'è un problema di reagenti, e lo diciamo tutti, il Veneto lo dice con il professor Crisanti. Ne discutemmo, se ricordate, quando si parlò di quell'azienda italiana che vendeva i tamponi all'estero, vendeva i tamponi negli Stati Uniti, grande scandalo, grande sollevazione. Poi l'azienda disse: guardate che qua noi abbiamo capacità produttiva quanta ne volete, perché il tampone, insomma, non dico che è un cotton fioc, ma poco ci manca. Allora, ieri, se non vado errato, a Tagadà il professor Broccoli, il virologo, il professor Broccoli dice: senza reagenti ci giochi a Shanghai con i tamponi. Niente ci facciamo, ci giochiamo a Shanghai. Certamente, i tamponi non sono il cotton fioc, come si intende. Servono tutti i reagenti chimici per poter fare poi le reazioni, ma è evidente che se indirizziamo i reagenti tutto su 2-3 aziende si va a saturazione. Ha fatto molto bene il professor Crisanti, e prendiamolo come esempio, funziona molto bene. Se li fanno, cioè, basta comprare i reagenti, non i kit. E ieri il commissario Arcuri ha detto: adesso faccio partire una gara per i reagenti. Però, insomma, io ho l'impressione che sia un filino in ritardo. Impressione, per carità. E poi l'app, Perché poi questa fase 2 deve essere una fase 2 con determinate caratteristiche sanitarie e di controllo. La famosa app per il tracciamento dei contagi, che a quanto pare, dopo essere stata rinviata a maggio, arriverà forse a giugno. Ieri, scatenato, il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità. Sentitelo sull'app, sentitelo. Vorrei dire anche che chi ha detto la Corea che aveva l'app, che chiudeva la Madonna, Gesù Cristi, chiudeva praticamente tutto perché l'app tracciava, la Corea è ritornata alla chiusura. Quindi non abbiamo situazioni miracolistiche, pensiamo che l'app sia la soluzione, pensiamo che le chiusure... Eh no. Caro Francesco Specchia, come stai? Buongiorno, editorialista di Libero, direttore di Pop Economy. Come va, Francesco? Bene? Compatibilmente, come si dice in queste situazioni. Ormai siamo nella fase 2 proprio da un punto di vista mentale tutti, ma siamo purtroppo proiettati verso una fase 3 che è inesistente, per cui ci portiamo sempre troppo avanti col lavoro, tra app, tamponi, reagenti, testi serologici, Covid... sezione Covid degli ospedali che si aprono o non si aprono, insomma, si capisce molto, c'è questo distacco della nostra burocrazia dalla realtà. Sì, tutto un po' confuso, Francesco, una confusione alla quale va detto, contribuisce sicuramente una parte di azione dell'esecutivo, lo ricordiamo sempre, la situazione non è facile per nessuno, non è facile per il governo, non è facile per le regioni, confusione alla quale contribuiscono anche le regioni con trasmissioni dei dati strani, incomplete, mancanza di strategia anche sui reagenti. Insomma, entriamo in questa fase 2 con una discreta complessità proprio anche per il monitoraggio. Sì, non solo, la fase 2 è abbastanza farraginosa per quello che riguarda soprattutto tutta la parte normativa, perché l'emblema di tutto questo sono questo eterno reiterarsi di decreti che si chiamano prima marzo, poi aprile, poi per imbarazzo li si chiama un decreto rilancio, sempre lo stesso decreto che come nel giorno della marmotta si risveglia e compie gli stessi passi, no, all'indietro. E quindi se noi abbiamo dovuto aspettare proprio per definire quanti soldi avevamo per rimetterci in moto 15 giorni, poi una notte tempestosa, poi ancora ieri c'è stata una sorta di tragicommedia all'interno del governo fino appunto ad ore inoltrate, ore piccole, poi adesso abbiamo 500 miliardi di spostamento di deficit e sicuramente ci dicono avremo questi soldi per la CIG, per la cassa integrazione ordinaria, per l'inderoga, poi ci saranno il decreto d'emergenza, tutto quanto senza avere effettivamente poi del denaro fresco, perché poi parliamoci chiaro, i soldi veri non ci sono, nonostante il governo abbia assicurato una copertura di 750 miliardi, allora qui ci dobbiamo chiedere qual è veramente la situazione e qual è la sua aderenza alla realtà. Noi dobbiamo solamente metterci in testa di prendere questi benedetti soldi dall'Europa. I modi ci sono, lasciamo stare il MES, che c'è la politica del MES, lasciamo stare il PEP con la Germania e con tutte le sue sentenze contro l'Unione Europea, ma per esempio ci sono, pochi lo sanno, 38 miliardi a disposizione, mi dicono, di fondi di coesione che devono essere ancora utilizzati, ma certo. Che sono lì e giacciono perché noi non siamo riusciti a spenderli. E la stessa cosa vale per 10 miliardi legati ai fondi delle regioni, ai fondi agricoli, altri 10 per i fondi per la cultura, cioè ballano circa 130-140 miliardi che abbisognerebbero semplicemente di un cambio di destinazione d'uso. Quindi invece di dire fondi di coesione, diamoli e ci togliamo dalle scatole. Ci sono, teoricamente ci sono. Tiriamoli fuori. Qualche ascoltatore poi contesta, dice vabbè, state rappresentando solamente posizioni antigovernative, ma no, guardate, semplicemente mi pare che sia tutto discretamente confuso e ce ne rendiamo conto. E poi sul tema delle mascherine a 50 centesimi, dice un ascoltatore, evidentemente lei si può permettere di pagarle di più. Guardi, il problema non sono io, il problema è il mercato, cioè nel momento nel quale il mercato fa quel prezzo, magari lo Stato può intervenire, ma può intervenire, che ne so, incentivando l'acquisto di mascherine, cioè ti do dei soldi apposta per comprare le mascherine. Considerate, ma poi, Simone, che... Sì, scusami, c'è anche il problema delle filiere, cioè noi già da sono due mesi che ce l'abbiamo quel problema lì e i cinesi ci hanno messo 15 giorni per mettere sulle fabbriche e costruire le mascherine. Noi abbiamo sempre delegato tutta la nostra produzione, il nostro grossissimo problema all'estero, al Vietnam, alla Cina, all'India. Sì. E ci siamo resi conto che la nostra manifattura, che teoricamente è la seconda in Europa, dipende solo ed esclusivamente dagli altri. E quindi su questo avremmo dovuto puntare, invece di perdere tempo nel fare decreti e spostare sempre più là nella notte tutte le necessità normative. In realtà sono le filiere. Se noi avessimo cominciato prima a costruirle, ma banalmente a Brescia ci sono dei ragazzi che hanno costruito con le maschere IKEA, quelle del Decathlon, certo. Hanno costruito, l'abbiamo anche detto, delle maschere di ossigeno che non trovano comunque diffusione in questo momento. Altri ragazzi hanno costruito delle mascherine con filtro smontabile a costi irrisori e non riescono ad essere distribuiti. C'è la disorganizzazione di base, è questa cosa qui, l'inventiva c'è, la capacità di adeguarsi al mercato c'è, ma è, io ripeto, questa grandissima macchina normativa, questa grandissima cannibalistica burocrazia che non riesce a farci andare avanti. Poi a Curi deve stare attento ovviamente a fare le sue dichiarazioni, perché poi viene sputtanato nel giro di 48 ore. C'è un enorme problema di comunicazione, non solamente di Arcuri in generale, questo l'abbiamo sottolineato più di una volta e fin dall'inizio, a dire il vero. Allora, si segnala anche la protesta dei sindaci contro il governo per tutta una serie di cose. Denaro che si trovano in meno nelle tasche, perché i comuni, nei bilanci dei comuni, perché si trova di meno, perché mancano tutta una serie di cose, le tasse di soggiorno. Pensate solamente al calo di fatturato e di bigliettazione che hanno avuto le aziende di trasporto pubblico. Come potete immaginare, è un problema, ed è un problema ripartire soprattutto per le città turistiche, tanto che si arriva ieri ad uno scontro tra il sindaco di Venezia Brugnaro e il vice ministro all'economia Misiani con questi toni qua. Nelle isole ci vogliono i battelli, non abbiamo la possibilità di farli muovere, lo vuoi capire o no? Le spazzature non riusciamo più a raccoglierle, le stiamo spiegando tutti quanti, è che siete sordi, sordi e incapaci. Sordi, incapaci, incapaci e boriosi, incapaci e boriosi. Allora, vice ministro, un po' di pazienza. Capito, Brugnaro? Insomma, proprio brutale, un po' meno brutale Luigi De Magistris, il sindaco di Napoli, su appunto il denaro che dovrebbe fluire verso i comuni, sentiamolo. Se comincia l'oligopolio delle organizzazioni criminali è finita, ma già è così prima in tempi di pace, è chiaro, loro adesso hanno liquidità, hanno tanta liquidità, tantissima liquidità, ecco perché ci vuole un atteggiamento completamente diverso anche del sistema bancario, del sistema creditizio, di Cassa Depositi e Prestiti, del governo, ma come fanno a non capirlo? Veramente, perciò dalla colpa rischi di passare al dolo. Insomma, dice De Magistris, dovete far transitare i soldi verso di noi in maniera che noi li possiamo distribuire ai cittadini, perché noi sappiamo dove sono le sacche di povertà, e in questo modo sottrarre persone alla criminalità. Intanto il traffico. E poi c'è tutta la questione delle riaperture, le riaperture dei locali, le riaperture anche delle spiagge. Oggi trovate tracce un po' dappertutto della protesta dei balneari che dicono con queste regole non ce la facciamo, così come lo dicono i ristoratori, ne abbiamo parlato, cioè se bisogna calcolare 4 metri quadri a cliente, si diminuisce del 60% secondo FIPE il numero di posti, e questo non vuol dire che quel 40% sopravvive bene, quel 40% che insomma di locali, vuol dire che ci saranno una serie di locali che chiuderanno, che non avranno, non faranno abbastanza margini per rimanere aperti. E quindi succedono anche cose come questa: un gestore di un locale di Sassari che distrugge ammazzate la sua pizzeria. Grazie, Covid-19. Azioniamo la gestione locale. Ed eccola qua, da dire, non è che sta là a incolpare il governo, dice semplicemente la situazione è questa. Bentornato a Stefano Magnone, che è chirurgo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e segretario dell'ANAO in Lombardia. Era stato da noi il 24 marzo, nel pieno dell'emergenza. Magnone, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, bentrovati. Abbiamo deciso dunque oggi di tornare nell'epicentro di questa crisi. Come vanno le cose? Ma diciamo che il mondo è di nuovo cambiato, questa volta in meglio, in ospedale si respira, diciamo che siamo tornati a fare per due terzi del nostro lavoro quello che si faceva prima, cercando di recuperare in qualche modo senza fare danni, senza contribuire di nuovo ad aumentare i contagi. Ascolti, terapie intensive, come vanno? Come stanno le cose? Le terapie intensive si stanno di nuovo riconvertendo, qualcuna di quelle aperte in via straordinaria è stata chiusa, è stata svuotata dai malati, ma rimane diciamo in qualche modo preparata con gli attrezzi per eventuali riprese del contagio, e anche i reparti sono ormai diventati molti di meno rispetto a quelli che avevamo visto quando ci siamo sentiti, quando l'ospedale era di fatto tutto dedicato, tranne pochi pezzi, ai pazienti Covid. Magnone, in questi giorni si è aperto anche un dibattito, anche una discussione l'ha sollevato, per esempio il professore, il tema l'ha sollevato il professor Remuzzi, ma non solamente lui, anche dai territori l'abbiamo sentito, questo tema della cosiddetta attenuazione del virus, ossia l'impressione non corredata da dati effettivi ma dall'esperienza clinica, e quindi in quanto medico che si trova quotidianamente in ospedale glielo chiedo, che i malati che arrivano adesso siano meno gravi, molto semplice, la faccio semplice, che non è una mutazione, è qualcosa di diverso. Cosa ci dice? Ma intanto vi dico che io non sono un esperto del settore perché faccio il chirurgo, quello che credo di aver capito è che noi abbiamo superato una fase in cui il virus era tra noi senza che noi lo sapessimo, e quando ce ne siamo accorti i pazienti erano tantissimi e la Lombardia è stata travolta e si è trovata come tante altre, o forse più di altre, impreparata. Adesso noi vediamo i pazienti che vengono probabilmente identificati molto precocemente e quindi riusciamo a vedere e a trattare dei pazienti molto prima. Probabilmente è questo, anche se ribadisco non sì, sono no, certo un esperto. Certo, certamente è un chirurgo. Mascherine, protezioni, come vanno le cose su quel fronte? Ma diciamo che il nostro ospedale, come anche altri, anche se in altri appunto non c'è stata questa possibilità, i dispositivi tutto sommato sono sempre stati chiaramente non abbondanti ma presenti, e quindi a maggior ragione adesso, con un uso pur parsimonioso e assolutamente attento, i dispositivi non mancano, probabilmente mancano fuori dagli ospedali, e questo l'abbiamo visto, sicuramente mancavano ai medici del territorio, che si sono ammalati in proporzione molto maggiore rispetto ai medici degli ospedali, che pur però hanno pagato un alto contributo. Eh sì, lo sappiamo. Che cosa portate a casa dopo questa esperienza, Magnone, come sistema ospedaliero e anche come medici lombardi? Ah, portiamo a casa tantissime cose. Dal punto di vista mio, in questo momento sindacale, portiamo a casa una larga impreparazione del sistema, una debolezza del territorio che qui in Lombardia era nota da tempo e da noi sottolineata. La riforma che è stata fatta nel 2015 non ha assolutamente raggiunto il proprio obiettivo, anzi direi proprio che ha fallito, ha indebolito ulteriormente il territorio, e i nostri ospedali sono stati travolti da questa marea, hanno cercato di rispondere in qualche modo. È chiaro che una riflessione andrà fatta, secondo me, profondamente sul sistema lombardo, perché il sistema lombardo diciamo che non ha risposto assolutamente nel modo in cui avrebbe potuto se fosse stato, diciamo, pensato in un altro modo. Un paradosso, si passava per essere la migliore sanità italiana insieme a quella veneta. Io credo che questo fosse molto gonfiato dall'opinione che si aveva da parte di chi ha gestito questo sistema, chi gestisce questo sistema da 25 anni. Poi è chiaro che i numeri che abbiamo visto sui casi totali non hanno nessun paragone, neanche lontanamente, con nessun'altra regione, e quindi sarebbe probabilmente andato in default qualsiasi sistema, ma certamente potevamo rispondere in modo diverso se fossimo stati strutturati diversamente. Grazie, Stefano Magnone, chirurgo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e segretario della NAO Lombardia. Grazie anche a Francesco Specchia, editorialista di Libero, direttore di Pop Economy. Grazie Francesco. C'è GR24, ci ritroviamo subito dopo, come sempre con la rassegna stampa con Paolo Mieli, visto che abbiamo 20 secondi in più. Vi ricordo i contatti, sempre il 349-238-6666 per SMS, WhatsApp, WhatsApp audio per le vostre voci. C'è la pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta video, siamo là. E l'email 24mattino@radio24.it e poi Twitter, Instagram, tutto quello che sapete. GR e poi la rassegna.